Gnu, gnu, Knut, come la neve è il tuo manto. Gnu, gnu, Knut, un batuffolo tutto bianco. Gnu, gnu, Knut, come la neve è il tuo manto. Gnu, gnu, Knut, un batuffolo tutto bianco. L'orsetto, bisogna portarti rispetto, tu che vivi in questa gabbia, che per ora è la tua casa, non sei triste perché hai tanti amici intorno a te, ma quanti giochi tu farai mentre grande diventerai. Rotolando in allegria, ma che grande simpatia. Scommettiamo su di te, su un futuro che libero è, di regalarti un po' di libertà. Forza dai che la conquisterai. In allegria, ma che grande simpatia. Scommettiamo su di te, su un futuro che libero è, di regalarti un po' di libertà. Forza dai che la conquisterai.